Europa 24. Buona giornata da Enrico Paglierini. Abbiamo sentito nel GR poco fa le parole del Premier Enrico Letta sull'Europa e da Bruxelles oggi arriva una doppia bacchettata per l'Italia. La prima sulla gestione dei rifiuti in Campania. La Commissione europea ha deferito il nostro paese alla Corte di giustizia. Bruxelles propone che venga comminata all'Italia una sanzione pecuniaria di oltre 250.000 euro per ogni giorno di permanenza in stato di infrazione successivo alla seconda sentenza attesa dalla Corte di giustizia. Dopo il cartellino giallo arriva il cartellino rosso per l'Italia. La Commissione europea ha deciso oggi a Bruxelles di deferire il nostro paese alla Corte di giustizia dell'Unione europea per il suo prolungato inadempimento in materia di gestione dei rifiuti della regione Campania. L'Italia, secondo la Commissione, non ha ancora dato esecuzione a una sentenza della Corte del marzo 2010, in cui era stata condannata per non aver predisposto in Campania un sistema di recupero e smaltimento dei rifiuti tale da non mettere in pericolo la salute umana e l'ambiente. Bruxelles propone dunque che venga comminata all'Italia una multa di circa 30 milioni di euro. Pur riconoscendo che alcuni progressi sono stati fatti, la Commissione motiva la sua decisione di oggi con i ritardi nella realizzazione degli impianti e con la preoccupazione per il problema tuttora irrisolto delle cosiddette ecoballe, i 6 milioni di tonnellate di rifiuti indifferenziati stoccati da anni in attesa di essere inceneriti. Inoltre, il capoluogo campano, Napoli, pur producendo più rifiuti di qualunque altra città della regione, ha un tasso di raccolta differenziata, sottolinea la Commissione, solo del 20%. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La seconda bacchettata della Commissione riguarda le quote latte. La Commissione europea ha inviato al nostro Paese una lettera di messa in mora, prima tappa della procedura di infrazione, esortandola a recuperare i produttori di latte che tra il 1995 e il 2009 hanno superato le quote loro assegnate, multe per un totale stimato in almeno 1,42 miliardi di euro, in gran parte ancora non riscossi. Cambiamo argomento. Secondo la stampa turca, una crisi seria fra Turchia e Unione Europea potrebbe essere in vista se il 26 giugno non sarà aperto, come finora previsto, un nuovo capitolo nel già lentissimo negoziato di adesione di Ankara all'Unione. In seguito, tutto ciò potrebbe accadere in seguito alla repressione delle proteste nelle ultime settimane da parte del governo del Premier Erdogan. Secondo un giornale locale, il governo turco potrebbe decidere di sospendere la cooperazione politica con i 27 e riportare le relazioni con l'Unione Europea ai livelli del 1997. Nei giorni scorsi il Premier Erdogan e il ministro turco per gli affari europei Bagis hanno reagito con forte irritazione alle critiche piovute dall'Europa per l'azione della polizia contro i giovani manifestanti pacifici turchi. È stato presentato ufficialmente a Bruxelles il progetto Euronet Plus, network europeo che coinvolge 13 radio, tra cui per l'Italia Radio 24. Sergio Nava ha chiesto a Dominique Dolné, direttore dell'informazione della RTBF, radio televisione belga in lingua francese, qual è oggi il significato di un network di questo tipo. Quand on est en réseau, quand on est plusieurs, on est plus efficace que tout seul. Je pense que c'est ça. Quando si è una rete, quando si è in molti, si è più efficace che da soli. Questo è il principale vantaggio di una rete di radio. Ci si può scambiare le idee, i reportage. Si può collaborare ed avere più forza quando insieme si richiedono delle interviste, anche di politici. Si è più forti, insomma. Questa è l'idea globale. Al di là di questo, questa rete ha il merito di permettere a tutta una serie di radio di coprire l'informazione europea, che non è una materia coperta volentieri dai media, è una materia ritenuta difficile, una materia ritenuta poco interessante per il pubblico, e questa rete, Euronet, ha questa virtù di permettere a queste radio, con l'aiuto e il sostegno della Commissione, di produrre dell'informazione per gli ascoltatori. In chiusura vi segnaliamo questa interessante opportunità in Romania. Sono Federico Taddia e oggi vi voglio segnalare un interessantissimo scambio interculturale in Romania, promosso in vista delle elezioni europee del 2014. Il campo, aperto a 27 giovani provenienti da Romania, Italia e Lituania, si terrà dall'11 al 23 agosto nella città di Humorului e avrà come temi portanti la cittadinanza attiva, il ruolo delle istituzioni europee e la partecipazione alla vita politica. Per candidarsi è necessario avere tra i 18 e i 25 anni, possedere una discreta conoscenza dell'inglese e dimostrare interesse verso l'argomento proposto. I posti riservati agli italiani sono solo 6. Per informazioni e iscrizioni www.scambieuropei.info. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento con l'informazione europea alle 15.05. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.